Well, every day on average in America at the moment, 9 kids are shot dead. Now, actually, only about 4 of them are black, 4 of them are white, one of them would be Latino. Ogni giorno negli Stati Uniti muoiono in media 9 ragazzi per colpi di arma da fuoco. Di questi, 4 sono bianchi, 4 sono neri e 1 è latinoamericano o di qualche altra etnia. Ma ovviamente, se guardiamo la proporzione di persone nere nel paese, la morte per arma da fuoco è la più probabile per un ragazzo nero fino ai 19 anni di età. E il numero di persone nere che muoiono negli Stati Uniti per arma da fuoco è alla pari con quello di Ruanda, Brasile o paesi simili. E in nessun altro paese occidentale questo sarebbe possibile. Nel 2013 è nato Black Lives Matter, il movimento che si batte contro il razzismo della polizia e per l'incolumità delle persone nere. La causa ha contagiato anche il mondo dello sport, in particolare l'NFL, con le proteste dei giocatori, Colin Kaepernick in primis, che si inginocchiano durante l'inno nazionale. Che effetto ha avuto l'elezione di Trump su questo movimento? So I think a few things have changed. First of all, molte cose sono cambiate, innanzitutto ciò che gli afroamericani hanno denunciato per lungo tempo adesso fa parte delle conversazioni quotidiane. In realtà non c'è stata una crescita del numero di persone uccise dalla polizia. Quello che è cresciuto è la consapevolezza che questo accade. Così come negli anni 60, ma anche con la fine della schiavitù a metà dell'Ottocento, durante la cosiddetta era della ricostruzione, la mobilitazione degli afroamericani spesso innesca la mobilitazione dei razzisti, che vogliono preservare i loro privilegi. E questo è ciò che stiamo vedendo, l'elezione di Trump, eccetera. L'elezione di Trump e so on. Now, the Black Lives Matter movement isn't a movement in a way that the Civil Rights movement was. Il Black Lives Matter non è un movimento nel senso in cui lo Stato il movimento per i diritti civili. Se vai a Chicago, a New York, non trovi sedi di Black Lives Matter, non ci sono referenti. Non esiste in forma materiale. In realtà è una consapevolezza. Attraverso l'attivismo sui social ha la capacità di organizzare rapidamente grandi quantità di persone nere, già organizzate o pronte ad organizzarsi. E se guardiamo gli esempi di Colin Kaepernick e Take a Knee, che deriva dalla questione della sicurezza dei neri e dalla violenza della polizia, vediamo la popolarizzazione di tutto ciò e anche la sua polarizzazione rispetto alla risposta di Trump a Kaepernick. And the polarization in terms of Trump's response to Kaepernick and so on. They say, get that son of a bitch off the field right now. Out. He's fired. He's fired! Le continue stragi, soprattutto nelle scuole, dimostrano che negli Stati Uniti c'è un problema di diffusione delle armi. Barack Obama cercò di limitarle, mentre sappiamo che Donald Trump è sostenuto dalla lobby delle armi. Quali sono le prospettive su questo versante? First of all, Barack Obama didn't try very hard. I mean, in his second term after. All'inizio Barack Obama non ha fatto molti sforzi per limitare la diffusione delle armi. Nel suo secondo mandato, dopo la strage alla scuola Sandy Hook, ci ha provato. Nel suo primo mandato non ha fatto nulla. Non vedo alcuna prospettiva di cambiamento imminente. Quello che però vedo è un movimento rinnovato. Basti pensare che a Parkland ha dato vita a una delle più grandi manifestazioni che abbiamo mai visto in America, una tra le 5 più grandi di sempre. Di fatto, la maggior parte degli americani pensa che ci dovrebbe essere una qualche forma di controllo sulle armi. Penso che in questi casi il cambiamento avvenga molto in fretta e inaspettatamente, come nel caso dei matrimoni omosessuali. E in questo senso Donald Trump è illuminante perché induce molti americani a pensare alla questione delle armi nel contesto di ineguaglianza, segregazione, povertà e razzismo.